luoghi d'arte. Salve da Marco Carminati, sono in Piazza della Scala a Milano e sono davanti alle Gallerie d'Italia Piazza della Scala, la sede della Banca Intesa San Paolo, la sede museale che ospita una mostra davvero eccezionale dedicata a uno dei più grandi pittori italiani dell'Ottocento, Francesco Hayez. Questo signore era un vero e proprio barone, era il più potente dei pittori attivi a Milano, era professore all'Accademia di Brera e i suoi quadri saranno destinati a diventare famosissimi. Il più famoso di tutti è il celeberrimo bacio, che si trova alla Pinacoteca di Brera ma che adesso è in mostra, e questo quadro paradossalmente l'ha fatto diventare famoso, ma lui non voleva assolutamente diventare famoso per questi dipinti. Lui avrebbe voluto essere ricordato per i grandi dipinti di storia, tra l'altro di storie che corrispondono esattamente alle opere che Giuseppe Verdi metteva in musica. Quindi questa mostra mette in risalto uno dei personaggi più interessanti per la cultura italiana, proprio perché è legato a tanti aspetti della cultura italiana. Intanto era stato allievo di Canova, quindi aveva avuto un inizio straordinario e è vissuto talmente tanto da aver fatto in tempo di aver visto il Doge, perché lui era veneziano, e aver visto l'Unità d'Italia, quasi 20 anni vissuto sotto l'Unità d'Italia. Ecco, tutto questo periodo è raccontato attraverso i suoi quadri, che sono stati quadri straordinariamente importanti, soprattutto ritratti, soprattutto grandi storie, appunto, di scene del Medioevo, di scene da melodramma, ma anche dei quadri provocatori. Era un amante del nudo femminile, sapeva ritrarre i nudi femminili e sappiamo bene che amava moltissimo anche le modelle, qui andava a cercare veramente ispirazione dal vero, e quindi questi quadri, insieme alle grandi composizioni, insieme ai ritratti, raccontano la storia di Francesco Hayez, il più grande pittore dell'Ottocento italiano.